Anquo Alessandro Mina e leggerai i giornali come uno che legge i giornali e che tanti schei. 24 mattino. Allora signori, sono le 7:20 e siamo qui in diretta, questa è la rassegna stampa di 24 mattino, ci siamo come sempre puntuali, facciamo subito i complimenti alla Juve, dai mettimi un bel applauso. Cross, lungo, no! Parte, colpo di testa, Chiellini! Ah, questo vuoi proprio inserire gli applausi, era banalmente degli applausi così, insomma brava brava Juve, no, devo dire, quando ci vuole, grande partita, grande vittoria. E, dai, siamo qui con Lorenzo Nespoli in redazione, Peter Bescapè in regia, applausi, no, in ritardo, quindi sembrano a voi, sembrano, ho detto, e andiamo a leggere i giornali. Parte il cross, lungo d'altra parte, colpo di testa. Allora, 7:21 di questo mercoledì 12 aprile, intanto i titoli, l'apertura del Sole 24 Ore, come alcuni giornali, via libera a DEF e manovra, split payment per le quotate. Ovviamente il DEF approvato ieri dà motivo a molti giornali di aprire. Per la Stampa, reddito di inclusione per i poveri. Il governo tiene duro davanti al pressing di Renzi. C'è anche il giallo su una manovra e su una norma pro Mediaset. Repubblica, manovra, altri tagli ma meno tasse. Juncker, Italia sulla strada giusta. C'è un'intervista al presidente della Commissione europea. Invece l'inchiesta Consip per il Messaggero, Consip, alta tensione tra procure, Corriere della Sera, inchiesta Consip, ora si indaga su altri depistaggi. Mentre l'apertura del giornale, bombe sulla Champions, salta Borussia Monaco, la paura terrorismo in Germania, l'altro quarto di finale che ieri si doveva giocare e c'è stato invece appunto due bombe, anzi tre bombe. La Verità torna sul caso Consip, Babbo Renzi, la verità sul complotto, i giornali si sono affannati ad assolvere il padre dell'ex premier, ma gli indizi che portano a lui sono parecchi. Anche il Fatto Quotidiano, PD con la destra, tutti all'assalto contro Report, la trasmissione che ricostruisce i rapporti tra i vertici Dem e la società di costruttori che ha acquistato l'Unità. Dopo quella puntata è un insieme di querele. Allora, per il Manifesto, manovra, tutto a posto, niente in ordine, conti pubblici, il governo approva il DEF, salvo intese la correzione da 3,4 miliardi. In tutto questo, io però voglio allargare gli orizzonti e parlare di quello che sta succedendo intanto nel mondo, perché dopo i missili lanciati sulla Siria dall'amministrazione americana, dopo che, e qui ci sono molte polemiche, il portavoce della Casa Bianca, Sean Spicer, ha lasciato interdetti i giornalisti in sala stampa con questa frase: i gas usati da Bashar al-Assad in Siria, neanche Hitler arrivò a tanto. Una frase che non è sconsigliabile sempre, per chiunque, tirare in ballo paragoni, soprattutto con la tragedia umana, quella della Shoah più immane del secolo scorso. Neanche Hitler arrivò a tanto. Infatti, lasciando di stucco, racconta il Corriere della Sera, i giornalisti in sala stampa, ma Spicer insiste, neanche Hitler usò armi chimiche contro la sua popolazione, come invece ha fatto Assad. E quindi la Russia si dovrebbe chiedere se vuole essere un paese che appoggia un simile regime. Sì, ma gli fanno notare, perché a quel punto, visto che insisteva, gli fanno notare che Hitler usò le camere a gas per sterminare gli ebrei. La risposta di Spicer è ancora più sconcertante. Sì, nei centri, così li chiama, nei centri dell'Olocausto, ma Assad li ha scaricati su innocenti nel centro delle città. Cosa vuol dire? Che gli ebrei invece non erano innocenti? Ma non so se ci rendiamo conto della gravità di queste frasi. Comunque, dalla Siria ora pare l'orizzonte spostarsi alla Corea del Nord, con un linguaggio, molti fanno notare, quasi da Far West. Donald Trump ha twittato, più che da Far West, da Saloon, no? Ha twittato: la North Korea is looking for trouble, cerca guai, proprio, no? In questo linguaggio così molto da bicchierino di whisky e saloon americano. Ma è un avviso anche alla Cina, fa sapere Federico Rampini su Repubblica. Il presidente americano invia una portaerei e valuta opzioni contro la Corea del Nord, e lo spettro di un conflitto lambisce una delle zone più nuclearizzate del pianeta. A questo proposito, oggi davvero non è male la maca di Michele Serra in prima pagina di Repubblica. Kim e Trump produce un suono da coppia comica, come Matt e Jeff, come Rick e Gian. Ma non c'è molto da ridere. Bullismo atomico allo stato puro, con l'amaro corollario che uno è dittatore, nipote di dittatori, come se in giro ci fossero Otto Hitler e Gino Stalin. L'altro è stato eletto in democrazia, per dire com'è ridotta la democrazia. Sono abbastanza vecchio per ricordare la crisi di Cuba. Vedevo gli adulti angosciati, capivo la gravità del momento, e quando si leggeva sui giornali incubo nucleare, nessuno poteva mettere in dubbio che fosse un incubo vero. Ora che siamo postmoderni c'è qualcosa di differente, di meno serio, che non vuol dire meno pericoloso, magari tra un quarto d'ora partono i missili e ciao. Vuol dire meno sostanzioso, più futile, legato alle mattane di qualche disturbato, non più tanto all'epoca o alla storia. La crisi di Cuba pareva sceneggiata da Jean Renoir o da Rossellini, uno strascico della guerra, del realismo e del neorealismo. Questa qui appartiene alla surrealtà, a partire dalla fisionomia pazzesca dei duellanti che, se ci facessero vedere una fotografia e non sapessimo chi sono, diremmo: ma Tim Burton sta girando un nuovo film? Ecco, questa è la maca di Michele Serra, davvero, davvero oggi consigliabile. Oh, in tutto questo, visto per rimanere in tema esteri, anche se ci proiettiamo un po' in Italia, cosa ha combinato Di Maio, Luigi Di Maio, vicepresidente della Camera dei Deputati e uno dei massimi esponenti del Movimento 5 Stelle? Ci ha fatto litigare con la Romania, di fatto. Tanto che l'ambasciatore rumeno scrive La Stampa, a pagina 7, con Di Maio e la frase shock sui rumeni criminali. L'ambasciatore rumeno ha preso carta e penna e ha protestato. Perché cosa ha scritto, dice Ilario Lombardo Di Maio su Facebook? Sono preoccupato, questa è la reazione dell'ambasciatore, quando le parole feriscono. Cosa ha scritto Di Maio? L'Italia ha importato dalla Romania il 40% dei loro criminali. Così nel testo, Mentre la Romania sta importando dall'Italia le nostre imprese e i nostri capitali. Che affare questa Unione Europea? E poi Di Maio si avventura in scivolose deduzioni. Stiamo attraendo delinquenti mentre le nostre imprese scappano dove i sistemi giudiziari sono più efficienti, come in Romania. E tutto ciò ha scatenato l'ira dei rumeni, con tanto di reazione dell'ambasciatore. Anche le associazioni rumene che dicono: guardavamo al Movimento 5 Stelle, ora non guardiamo più. Vabbè, vediamo. Voglio invece andare a una notizia di cronaca, visto che siete alla guida e visto che il tema della guida, l'uso del cellulare, il timore di incidenti c'è sempre. Vi segnalo da Repubblica, pagina 18, ciò che alla Procura di Roma, con il procuratore generale della Corte d'Appello Giovanni Salvi, stanno pensando, o meglio stanno già facendo. La svolta del procuratore generale. Ricorriamo a misure estreme contro i pirati della strada, ma la legge lo consente, e cioè cellulare sequestrato per verificare quando c'è un incidente, se uno stava magari facendo una telefonata, dalla cronologia, cellulare sequestrato e subito test forzoso del sangue, cioè forzato. Sapete che c'è gente che si dice: no, io posso rifiutarmi. Ecco, da alcuni mesi a Roma, racconta Maria Elena Vincenzi, e in tutto il Lazio, in caso di incidente grave o mortale, quando ci sia il sospetto di abuso di alcol o droga, si possono fare coattivamente gli esami del sangue del guidatore. Non solo, le forze dell'ordine possono anche procedere al sequestro del cellulare per vedere se chi guidava era distratto. Sono disposizioni definite da un protocollo stipulato dalla Polizia della Strada, la Regione Lazio e la Procura Generale presso la Corte d'Appello. La direttiva porta la firma del Procuratore Generale di Roma, Salvi, e in questo documento, che non è solo una dichiarazione di intenti, c'è una struttura operativa serrata e tre attori principali, la sanità, la polizia stradale, le procure, che hanno deciso di fare questa cosa. Ma eccoci qui, siamo all'articolo che mi fa pinzore della giornata, perché è chiaro, quando vi toccano il portafogli, soprattutto con l'agenzia delle entrate, con le tasse, con i balzelli, con le scadenze, dopo sentiremo quelle da Mauro Meazza, e poi leggi una notizia del genere sul Secolo XIX, agenzia delle entrate, arrestato per tangenti il direttore provinciale di Genova. Marco Grasso e Matteo Indice raccontano dell'appuntamento in un ristorante, uno dei più noti di Recco, la Manuelina. Allo stesso tavolo siedono persone che non dovrebbero cenare insieme, consulenti di un'azienda della Campania che stranamente aveva spostato la sede a Genova, e dall'altro lato della tavola il direttore provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Genova, Walter Pardini. La consegna di una busta, l'arresto in flagrante, l'accusa di una tangente, la difesa disperata del dirigente Mazzette, ma no, è lo stipendio in un ristorante. Sulle prime ha provato a negare, così, non sapendo quali prove avessero in mano i finanzieri, si è aggrappato distinta a una giustificazione che fa quasi sorridere, ma quali Mazzette, signori, questo è il mio stipendio. L'arresto in flagranza di reato del direttore dell'Agenzia delle Entrate di Genova, tangente. Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. Alessandro Milan, il rosicone dell'informazione, e non solo dell'informazione. Vabbè, in generale. Ok, alle 7:36 minuti, mi becco questo. Allora, il DEF, la manovra... Allora, la manovrina 3,4 miliardi è approvata salvo intese. E lì bisognerà un po' capire. Il DEF, leggo da Mario Sensini a pagina 2 del Corriere della Sera, una crescita un po' più alta del previsto quest'anno, ma ridotta nel 2018 e 2019 per effetto di una manovra correttiva del deficit che si annuncia pesante, che il governo ha costretto intanto a mettere in cantiere, nella speranza poi di convincere l'Unione Europea a un minor rigore. Nel 2017 la crescita del PIL sarà dell'1,1%, ma tornerà all'1% nei due anni successivi, invece degli stimati 1,3-1,2, prima di registrare un'impennata nel 2020. Queste sono le parole e le speranze, forse anche, del ministro dell'economia Padoan commentando l'approvazione del DEF. Mentre i numeri del nuovo quadro economico, come anche il dettaglio delle misure per la correzione dei conti da 3,4 miliardi, non sono stati ancora ufficializzati. Li vedremo, anche perché ci sono delle battaglie politiche in corso, è innegabile. La partita del DEF, per esempio, la vette, politicamente parlando, Repubblica, pagina 2. E cioè vede Renzi e Padoan come i due poli attorno ai quali si concentra una partita politica ed economica non indifferente. Per esempio, chi vince e chi perde. Renzi vince sulle privatizzazioni. Dovevano avanzare di mezzo punto di PIL all'anno, vengono ridotte allo 0,3, e c'è una frenata su Poste e Ferrovie. Questa è una cosa che voleva Renzi. Sulle tasse, invece, all'inizio si voleva ritoccare l'IVA, poi la benzina, le bibite zuccherate, alla fine cosa aumenta? Solo il prelievo su giochi e sigarette. Avanzano invece la stretta sull'evasione ai tagli ai ministeri, anche questa è una vittoria per Renzi, nel senso che ha sempre detto l'IVA non si tocchi, la benzina non si tocca, eccetera. E quindi anche questa, secondo Repubblica, è una sorta di sconfitta per Padoan, così come quella sulle privatizzazioni. E poi sul catasto, la riforma che l'Europa pretende da 7 anni, ma per passare dai vani ai metri quadri, questa riforma torna nel cassetto per paura del salasso fiscale. E quindi perdono anche Padoan nel PD di Renzi, che l'avevano scritta e poi affossata nel 2015. Insomma, è interessante questa grafica di Repubblica. Sul Sole 24 Ore, pagina 3, Marco Mobili, Marco Rogare, Gianni Trovati raccontano le novità sullo split payment per tutte le quotate. Lo split payment da cui si punta a raccogliere 1,2-1,3 miliardi, cioè la scissione contabile, di fatto è quel sistema che mette in mano ai fornitori le fatture al netto dell'IVA, perché l'IVA viene girata direttamente allo Stato, all'erario. Questa scissione contabile, appunto, dovrebbe dare 1,2-1,3 miliardi di entrate allo Stato. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al decretone nato per attuare la manovra correttiva da 3,4 miliardi, fino a imbarcare un pacchetto imprese e soprattutto le norme del decreto enti locali, e tutti i dettagli sono sul Sole. C'è poi un giallo su cui la stampa e il Messaggero si concentrano con molta attenzione, il giallo di una manovra, o meglio, scusate, di una norma che è stata definita pro Mediaset e che è stata fermata. Fabio Martini racconta pagina 2 della Stampa: a forza di foto carine e di un ritrovato tocco politico, Berlusconi torna a alimentare gialli, sospetti, fantasie. Ieri il fantasma del cavaliere si aggirava al Consiglio dei Ministri perché i renziani hanno fatto sapere che attraverso un'azione congiunta Orfini-Rosato il PD aveva bloccato una norma antiscalate ostili ben vista da Berlusconi, che il ministro dello sviluppo economico Calenda avrebbe voluto inserire nella manovrina da correzione da 3,4 miliardi all'esame del Consiglio dei Ministri. Carlo Calenda, sentito in serata, letteralmente reagisce: ma non esiste, la norma non è stata inserita nel decreto perché non c'era alcuna fretta di approvarla, non aveva i requisiti di necessità e comunque non è retroattiva, e in particolare è da escludere che si applichi alla vicenda Mediaset, in quanto a dicembre l'operazione di acquisizione Vivendi aveva già raggiunto e superato la soglia del 25%, ben al di sopra della nuova norma che fisserebbe al 10% l'obbligo di disclosure, cioè la comunicazione formale delle intenzioni che hanno portato al superamento di una determinata quota azionaria. Quindi Calenda dice non è assolutamente così, ma c'è questo giallo. Su tutto c'è l'intervista che Repubblica fa a Juncker, presidente della Commissione Europea. Andrea Bonanni e Alberto D'Argenio lo intervistano, pagina 3 di Repubblica. L'Italia è sulla strada del risanamento, è impensabile che stia fuori dall'euro, così Juncker, che dice non ho ancora visto nel dettaglio il DEF, la manovra correttiva, non posso dare un giudizio, neanche noi per la verità, quasi nessuno. Comunque, dice Juncker, mettiamo subito in chiaro che escludo un'uscita dell'Italia dall'euro. Detto questo, mi rattrista vedere che il paese perde competitività di giorno in giorno e di anno in anno. Ci sono riforme strutturali che vanno fatte, sia pure con saggezza. L'Italia deve ritrovare un tasso di crescita che oggi è troppo debole. L'Europa le ha dato spazi che occorre saper sfruttare. La flessibilità ha permesso al paese un margine di manovra senza che la mannaia del patto di stabilità gli cadesse sul collo. Abbiamo apprezzato la riforma del mercato del lavoro. Osservo con simpatia, serietà e sforzi con cui il governo Gentiloni affronta la crisi delle banche. Noi vogliamo che il sistema bancario italiano esca più forte e robusto da questa fase difficile. E poi dice Juncker, l'Italia oggi è ammirata da tutta l'Europa, salvo che dagli italiani. Non siete abbastanza fieri del vostro paese. Gli italiani danno sempre l'impressione di essere frustrati, quando in realtà sono dei campioni. Presidente, sembra di sentire Matteo Renzi. Ma su questo Renzi ha ragione, dice Juncker. Non ha ragione quando attacca la Commissione, senza motivo, ma su questo ha ragione. Quando era Presidente del Consiglio abbiamo avuto discussioni burrascose. Tuttavia lo apprezzo molto per l'orgoglio che dimostra rispetto al proprio Paese, un orgoglio che capisco e condivido. Sì, Juncker, ma sull'immigrazione ci avete lasciati soli. Questo non è vero. Fin dall'inizio ho detto che la tragedia dell'immigrazione non può essere un problema greco o italiano. Per questo abbiamo presentato proposte per la redistribuzione dei richiedenti asilo, abbiamo rafforzato il sistema di accoglienza dei profughi in supporto degli sforzi italiani che sono enormi. L'Italia meriterebbe il Nobel per la pace in considerazione di quello che fa per salvare vite umane nel Mediterraneo. Sì, verrebbe da dire Nobel, va bene, dateci il Nobel per la pace e poi aiutateci più concretamente, non solo con le parole. Date anche il Nobel per la pace a Mauro Meazza, se vuole. Fate pure, Unione Europea. Candidiamo al Nobel, subito mettiamo. Ah, abbiamo fatto la petizione, è partita, change.org, la petizione, raddoppio dello stipendio a Mauro Meazza, come giornalista e come poeta di Radio 24. C'è la petizione? Mauro, ne sai qualcosa? Grazie, sono lusingato c'è? E confuso. Perché mettiamo tanta... un'altra petizione, Nobel per la pace a Mauro Meazza, su change.org, grazie. Subito, sono confuso e felice, come diceva la canzone. Sì. Guarda. Buongiorno caro Alessandro, ti ho sentito poco fa argomentare sullo split payment, me ne compiaccio. tanta sensibilità tributaria per l'IVA, guarda, è una cosa che un poco mi commuove davvero. Sappiano anche gli ascoltatori, potranno poi apprendere tutti i particolari sul Sole 24 Ore, che nella manovrina ci sta pure un tetto più basso per le compensazioni. E poi però arriva anche una cedolare, sai la cedolare affitti? Sì. Ecco, anche per gli affitti Airbnb, sai, quelli brevi, insomma, quelli turistici, e anche lì ci sarà un ritocchino con l'applicazione della cedolare secca, della cedolare affitti, pardon. E poi la rottamazione o sanatoria, o insomma, chiamala come vuoi tu, delle liti fiscali, anche questo è nella manovrina, ma tutti i particolari sono naturalmente sul Sole 24 Ore di oggi. Per lo split payment chiedete pure, scrivete ad Alessandro Milan. Sì, so tutto. Che è versatissimo sulla materia. Senti, leggerai oggi scrupolosamente le pagine di, vabbè, no, lo dico io, imprese e territori, laddove apprenderai che è stato approvato il piano per la sostituzione di tutti i contatori Enel con dei contatori di nuova generazione. È una cosa molto vasta e arriverà a interessare 40 milioni di contatori in un arco di tempo di anni, naturalmente. Leggi tutti i dettagli su imprese e territori scrupolosamente, mentre religiosamente, sì, norme e tributi. Oh, vedi che quando vuoi sei attento. Sappi che il fisco non si sta accontentando della AIRE, cioè l'anagrafe dove si scrivono o dovrebbero iscriversi gli italiani residenti all'estero, ma sta andando a controllare anche i permessi di soggiorno in paesi, come dire, ospitali dal punto di vista fiscale o magari ospitali con i patrimoni. Leggi su norme e tributi, ci sono delle verifiche che stanno partendo, e quindi se tu per ipotesi avessi trasferito la tua residenza in uno di questi paradisi, ma senza, dimenticandoti di dirlo, ecco, sappi che ti vengono a cercare. Oh, e poi come non pensare all'APE? Stai pensando all'APE, no? Giorni. Perché tu sei giovanissimo, che ti interessa a te dell'APE, però sappi che l'APE volontaria, l'abbiamo detto, sta un po' in ritardo. Però la Rita è pronta. È pronta, puoi passarla a prendere. No, nel senso, è pronta la rendita integrativa temporanea anticipata, questo è il senso dell'acronimo Rita. Questa rendita che consentirà a chi sceglierà l'APE di avere un sostegno dai fondi pensioni. Tutti i particolari religiosamente su norme e tributi. Oh, bravissimo. Traffico. Oh, Lino, dico, ma te sei proprio imbriaco di mattina buonora? Eh? Ma proprio te sei imbriaco, te ne hai bevute, ombre? Sì, ne ho bevute molto. Come si può vedere in questo confronto tra le nostre voci, caro ascoltatore? Allora, la questione politica si concentra sempre sulla vicenda Consip. L'accusa di avere modificato un'intercettazione importante sulla vicenda che coinvolge anche il papà di Matteo Renzi e che vede protagonista il capitano del NOE Giampaolo Scafarto, quindi carabinieri, indagato dalla Procura di Roma per falso. I giornali raccontano intanto lo scontro tra i PM di Roma e Napoli, perché a Napoli invece confermano la fiducia nei confronti dei carabinieri del NOE, del nucleo del NOE. A Roma invece, come racconta Fiorenza Sarzanini a pagina 8 del Corriere della Sera, a questo punto i PM romani vogliono rivedere e rileggere tutti gli atti per verificare se non ci siano altre anomalie, altre cose strane. Su alcuni giornali invece, per esempio La Verità, ma anche Il Fatto Quotidiano, l'accusa è ecco, adesso i giornali parlano del caso Consip, cioè per dire che c'è questa cosa in favore di Tiziano Renzi. Fino a quel momento del caso Consip non avevano parlato granché, a parte appunto La Verità, a parte Il Fatto Quotidiano. Su Repubblica, per La Verità, c'è un altro articolo interessante, firma Fabio Tonacci, pagina 6, e riguarda sempre il capitano Scafarto e un'altra vicenda giudiziaria, quell'audio aggiustato sul sindaco di Ischia. Scrivere pubblica non è la prima volta. Il capitano Giampaolo Scafarto è già incappato in una intercettazione che alla prova dell'ascolto è risultata diversa da come lui l'aveva riportata ai magistrati. Una parola che i periti nominati dal tribunale hanno indicato come incomprensibile e che invece nelle informative è diventata Giosi, soprannome dell'allora sindaco di Ischia Giuseppe Ferrandino, e inserita in una frase: a detta di Giosi andiamo tutti quanti in galera, pronunciata sembra dal fratello. È chiaro che questa frase suona in un certo modo, ma in tribunale l'avvocato dice: guardi caro capitano, che in realtà secondo i periti è a detta di, parola incomprensibile, andiamo tutti quanti in galera, cioè non si fa il nome del non si fa il soprannome del sindaco di Ischia, le parole sono proprio diverse. Perché lei ha una parola incomprensibile, la sostituisce con Giosi? E il capitano balbetta in aula: sì, dopo, poi, più volte è stato scritto nella perizia, è stato scritto nel testo nostro, cioè i brogliacci che in tribunale non valgono. Insomma, Repubblica racconta una vicenda che getta anche qui qualche ombra su capitano. Insomma, non è la prima volta che capita una questione del genere. Questo almeno racconta Repubblica. In tutto questo, che cosa c'è da raccontare ancora? Siamo a che ora chiudiamo qua? Alle 55, come al solito? Allora, c'è questa vicenda di questo video che ha fatto il giro, ieri l'ho fatto vedere che qui in redazione si rideva anche molto, in realtà c'era poco da ridere, non so se l'avete visto, gira sui siti, di questo passeggero del volo United Airlines che, essendo il volo in overbooking, è stato tirato giù a forza perché c'erano più persone, avevano venduto più biglietti la compagnia aerea, in questo caso United Airlines. Cosa hanno fatto? Hanno provveduto a un sorteggione. Hanno detto: una persona deve scendere, l'hanno sorteggiata e questa persona si è rifiutata di scendere. L'hanno trascinata letteralmente con la forza, trascinandola lungo i corridoi dell'aereo mentre lui era un medico, è un medico. E allora tutti i giornali raccontano, per esempio, guardate La Stampa: aerei più biglietti che posti, come difendersi dall'overbooking. Vi consiglio pagina 13 della Stampa, le polemiche dopo il caso di un medico statunitense portato a forza a terra. La United Airlines, che tra l'altro è crollata in borsa, ha dovuto chiedere scusa per la scena non certo edificante che è stata mostrata. La Verità racconta che Fabio Fazio, lo fa Maurizio Caverzan a pagina 21, Fabio Fazio starebbe trattando il suo passaggio a Mediaset. Chissà se verrà smentito o no. Secondo La Verità, in questi giorni i dirigenti Mediaset devono fare un'offerta, perché è tempo che fa, per il passaggio di Fabio Fazio in fuga dalla Rai. Staremo a vedere. Mentre dobbiamo fare i complimenti alla Juve, c'è poco da dire. Grande partita, grande vittoria, immensa gioia. Questo è il titolo della Gazzetta. Ovviamente su tutti i giornali troverete anche tutte le notizie riguardo alle bombe, al mistero di queste bombe esplose a Dortmund, che hanno fatto saltare la partita della Champions, perché tre esplosioni hanno fatto saltare Borussia Dortmund, Monaco, tra l'altro un giocatore ferito, tre esplosioni davanti al passaggio del pullman del Borussia. Va bene, siamo alla Carta Costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali, siamo con Laura Rio, siamo una pagina intera del giornale che racconta il dramma ennesimo di Morgan. Morgan via dallo show Amici con De Filippi che dice: è stato un mio fallimento. Ma chi se ne frega!